Una buonasera da parte di Max Macchia per quanto riguarda 451 frammenti sonori. Beh, ben ritrovati a qualsiasi ora, così insomma cambia un po' il solito refrain. E, con 451 frammenti sonori andiamo a cercare dentro le sperimentazioni sonore, dentro probabilmente quelle questa sera saranno più delle demolizioni sonore, visto che inizieremo tra l'altro con Martin Rev, proprio con Demolition 9, proprio su ultimissima fatica, lavoro decisamente interessante. 451 frammenti sonori con dirottamenti, questa sera come al solito insomma siamo così morbidi per modo di dire, poi in realtà insomma ogni tanto lo siamo anche da queste parti, diventiamo anche dei teneroni. E beh, questa sera forse più che appunto teneri o dirompenti, saremo, come dire, depistanti, dirottanti, piste che sembrano prese, poi in realtà vengono volutamente deviate, portate verso altro, quindi il dirottamento in questo senso prende forme differenti, se non addirittura proprio anche delle sostanze che diventano sostanze in maniera alterata, potremmo dire, faccende che sono legate sia a musiche ma anche ad attitudini complessive legate alle musiche e a questo appunto atteggiamento, attitudine che hanno alcuni autori. Questa sera metteremo da queste parti. Dicevo appunto Martin Rev non ha bisogno di grandi presentazioni, parte insomma dei Suicide, potremmo dire 50%, a volte anche qualcosina in più e altre volte qualcosa in meno. D'altronde ha avuto per 30 anni e passa a fianco 40 e passa Alan Vega, che ci ha lasciato purtroppo l'anno scorso. Abbiamo avuto modo di omaggiarlo, ma non è mai abbastanza. Martin Rev che se ne esce con, dopo appunto la tragica anche scomparsa, quindi il lutto anche personale, oltre che anche quello che poteva essere un altro lavoro di Suicide, visto che nel corso degli anni poi si sono ritrovati appunto Alan Vega, Martin Rev, proprio per rimettere in sesto, e come tra l'altro proprio i Suicide, dischi sempre, ecco, anche qua depistanti e dirottanti, eccezionali in questo senso, nel riuscire a essere significativi, segnanti, eppur cambiando pelle di fatto e a volte anche proprio suono, quindi anche la sostanza su cui lavorava anche Martin Rev e Alan Vega appunto come Suicide. E Martin Rev se ne esce appunto con un lavoro che devia da quelle che possono essere un immaginario sonoro legato a lui, forse l'intera discografia di Martin Rev, anche forse più di Alan Vega, che è sempre stato coerentemente demolitore, ecco. E Martin Rev invece sul serio ha cercato, questo non per puntare i fari più su uno che sull'altro dei due Suicide, ma sicuramente Martin Rev è stato altro rispetto alle musiche create da lui appunto come Suicide, per quanto riguarda appunto i dischi solisti, partendo già da Martin Rev, che si riprendeva certi viatici creati già dentro i Suicide in termini di techno pop, ma li portava in un altrove, una musica che è sempre stata decisamente marziana, decisamente fuori. E poi se ne è uscito anche con lavori molto legati a immaginario anche canzonistico, potremmo dire, sia nel senso canzonatorio della, ma neanche tanto dei pezzi che hanno sempre ispirato Martin Rev. E appunto rifatti in chiave anche quasi sentimentale, un disco di qualche anno fa, potreste andarlo a sentire, tra l'altro è edito dalla Sacco, quindi legata a Pansonic, e anche qua insomma indirettamente si ritrova con Alan, che nel frattempo stava lavorando con proprio i due finlandesi. Poi altri dischi in cui elabora un suono che vagamente lo avvicina verso certe colonne sonore immaginari, potremmo dire, fino all'ultimo, che è quasi una library, poi di fatto tanti pezzi molto brevi con appunto depistamenti, dirottamenti veramente continui, e anche a un certo punto momenti che così sono piuttosto inediti dentro Alan Vega, una sorta di così di suono quasi ecclesiastico, se non fosse appunto Martin Rev, e quindi ci portasse dentro sì, una chiesa forse rivista o addirittura ribaltata per certi versi, ma di certo certe coralità ricordano sia certe figure horror, come anche appunto momenti quasi di canto gregoriano o di musiche insomma antiche, che ci riportano appunto a un senso quasi del sacro, che però appunto diventa dentro Demolition 9, l'ultimo lavoro di Martin Rev, altrove depistamento, come dal titolo questa sera della trasmissione 451, frammenti sonori, dirottamenti. Martin Rev. No, non vi allarmate, non sta succedendo nulla di compromettente. Ecco, e, abbiamo insomma inserito su Demolition 9, beh, un matto, veramente matto, considerevole anche Duran Vasquez, che andiamo appunto a sentire. Con il suo terror film For Radio, beh, se appunto con Demolition 9, ultimo lavoro di Martin Rev, siamo andati dentro quello che può essere considerato sì veramente un disco di Library 2017, quindi anche con quell'operazione, diciamo, cinica, potremmo dire, se poi non fosse sempre stato decisamente diretto nel suo essere anche appunto demolitore e dirottante, Martin Rev, nel suo continuo depistaggio appunto sonoro, appunto potremmo dire una sorta di operazione studiata a pennello appunto per creare una sorta di appunto library dei nostri giorni. Forse lo è anche per alcuni versi, come probabilmente lo è anche un personaggio come Vasquez, che lavora su sia immaginari oramai come dire dati e consolidati. Se pensiamo che un suo lavoro del 2011 del giovane autore si chiama Selected Ambience War, con chiari riferimenti al Selected Ambient Work di Aphex Twin. Poi tra l'altro Home Sweet Home, Laissez Passer, probabilmente legato a un disco del 2010, al neoliberismo così in fase di caduta libera, poi ricaduta forse, e neanche tanto libera, su le popolazioni e su appunto soprattutto il sud del mondo, visto che poi ha anche zone di Duran Vasquez appunto da dove proviene, legato per molti versi al Portogallo, e con appunto Terror Film for Radio si inventa una sorta di narrazione musicale con tanto appunto di effetto orrorifico, e ogni tanto quasi a voler costruire una sorta di radiodramma sonoro, più che altro una sorta di radio futuristica, futuribile, quella di Duran Vasquez, che appunto andiamo a esplorare in questo momento, cercando insomma altri dirottamenti. Personas, 60 personas más o menos, están como Perché se c'è solo quello che in questo momento appunto il panico io vedo se beve quello che il deve sangue quando lo voglio Yeah. for you. Confess himself. Then maybe. Maybe. But if you need us, we'll tear your soul apart. She'll tell him everything. Mi sa che è successo qualcosa in Terror Film for Radio, ovviamente è tutto, come dire, narrato e sonorizzato da Duran Vasquez, quindi con un senso anche così, se non ironico, direi quasi sardonico in alcuni punti, se non che anche con quel tanto di inquietudine, ma appunto nel dirottamento ci sta anche questo. Tra l'altro Duran Vasquez appunto fa operazioni concettuali anche molto interessanti, legate, prima citavamo l'ambient work di Aphex Twin, che diventa Ambience War, quel riferimento appunto alle crisi che ormai attanagliano i disperati o i disperanti in questo momento della terra, quindi il suo la Sefer, la Passé, e quindi con insomma quel tanto appunto di critica anche pungente, anche una sorta appunto di se vogliamo invenzione, reinvenzione della narrazione sonora, del radiodramma, che diventa anche psicodramma qua, con tanto insomma di urla e di voci terrificanti e anche di suoni che comunque vanno a creare un ambiente decisamente sinistro, se non fosse appunto per questo gioco senz'altro al massacro che crea Duran Vasquez, ma che forse appunto ci porta verso il territorio anche della manipolazione per arrivare a un altro, quindi anche in questo senso forse, anzi senza il forse, c'è un disegno critico dentro tutte le musiche di Duran Vasquez, anche nel trattamento, nel compositivo dello stesso autore, che andremo a trovare, visto che insomma sta facendo i lavori da qualche anno, da quando tra l'altro è scoppiata la crisi nel 2009, chissà, qualche riferimento forse, prima esisteva soltanto un disco, uno split, una sorta di split di qualche anno prima, ma di fatto ha preso forma il suo percorso musicale dal 2009, perlomeno in termini di pubblicazione di file via internet, di CDR e di quant'altra diavoleria appunto possano passare anche attraverso quello che è un formato decisamente liquido, forse più così dato dalle necessità che è voluto, insomma, un po' per un discorso economico, quindi anche di diffusione, se vogliamo, del lavoro appunto del giovane Duran Vasquez, giovane perlomeno in termini di carriera, potremmo dire, di percorso musicale, mentre uno che la sa veramente molto molto lunga e la sa anche cattiva è Michael Morley, uno dei punti di riferimento del noise, tutto quello rock che vira verso forme di free improvisation dentro appunto una struttura che potremmo considerare vagamente appunto tale, vagamente rock, che va a sconfinare nel campo appunto di una composizione assolutamente aperta, con tanto appunto di ricerca su quello che è il noise in termini anche appunto strutturali, di composizione. Michael Morley e Paul Morley è un'altra storia, è un critico musicale, anche lui c'entra con i rumori per certi aspetti, ma è un'altra storia. Michael Morley con i Dead Sea, quindi storica formazione australiana, già alla fine degli anni Ottanta, dedita a un suono lancinante, deflagrante per molti aspetti, e anche per quelle distese noise che saranno anche un buon punto di riferimento per tutti i noiser che verranno, partendo dagli anni 90 per arrivare ai nostri giorni. Michael Morley, oltre che Dead Sea, quindi formazione di riferimento, come dicevamo appunto, del noise internazionale, ha anche un progetto che cura da più anni, come Gate, progetto che veramente qua depista già quello che è molto molto libero, molto free, molto informale, potremmo dire, dentro il progetto di Dead Sea. Gate, partendo dal rumore, può arrivare, come fa ad esempio nell'ultimo disco, sorta di gioiello musicale, per veramente capacità nel trattare il noise e farlo diventare qualcosa di veramente indefinibile, proprio in termini appunto di composizione, di grana sonora. Questo Saturday Night Fever, anche qua appunto come Duran Vasquez, c'è cioè il gioco al massacro, riferimento insomma alla Saturday Night, la febbre del sabato sera, che non è proprio insomma quella che uno si aspetterebbe, però in un certo qual modo c'è anche una sorta di John non proprio travolta, ma forse veramente stravolto definitivamente da un suono che diventa una sorta di house impossibile, indefinibile come tale dentro una struttura noise. Potremmo dire veramente geniale per molti aspetti, forse potrebbe essere anche uno degli ambiti legati all'underground e al trattamento del noise che in un certa qual misura si è intravisto negli anni 10, questa sorta di trattamento del rhythmic dance che potremmo definire vagamente house, con tanto di sibilo rumoreggiante e tanta composizione appunto legata a quello quello che è anche la frequenzialità del noise, che può portare appunto anche a percorsi ritmici, come appunto fa magistralmente in Saturday Night Fever Gate, ovvero Michael Morley. un dirottamento che è anche il piacere appunto di un altrove che pur trattando come fa da veramente 30 anni a questa parte Michael Morley il rumore, anche quello proprio è più difficile da manipolare, riesce poi a farlo diventare quasi un suono estatico, è quasi un pezzo dance per corpi, ultracorpi forse, e quindi una Saturday Night Fever che diventa febbre assolutamente incontrollabile, febbre che va a comporre e a ricomporre anche in maniera veramente deviante, però decisamente costruttiva, quindi con un'alterità che diventa seriamente creativa, con appunto questo anche vagheggiare appunto a quello che potrebbe essere appunto una sorta di ecstatic noise house, potremmo così definirla, altrettanto giocando insomma su quello che è un territorio sempre accidentato, sempre dirottante appunto di Michael Morley, sia con i suoi Dead Sea e sia con Gate, progetto che depista ulteriormente Dead Sea, sempre comunque avendo come punto di riferimento il trattamento e la matrice, quindi noise della cosa, non è un eclettismo insomma che si perde dietro appunto mosse, pose da tutto fare, no, anzi tutt'altro, è anche difficile proprio il lavoro di Michael Morley, cosa che comunque non lo fa diventare avulso da anche un territorio diretto come può essere questo appunto Saturday Night Fever da parte di Gate, e cose così un po' dell'altro mondo, anche una collaborazione come quella di Oneida insieme a Rhys Chatham, disco che poteva essere probabilmente un disastro, un autentico disastro, e in realtà è uscito un gioiello molto molto particolare anche nel suo formarsi come appunto pietra preziosa, perché Chatham ha invitato da Oneida, che non si facevano tra l'altro sentire da un po', il disco uscito qualche mese fa, beh, non si aspettava di certo di trovare un gruppo che riuscisse a sperimentare sul noise come storicamente ha fatto lui, uno dei grandi padri del massimalismo, insieme chiaramente a Graham Branca, quindi figli veramente a Iosa, da Sonic Youth a Swans eccetera eccetera, insomma si potrebbero veramente qua fare l'enciclopedia delle musiche rock altre tratte da appunto dei lavori di Rhys Chatham e Graham Branca, il massimalismo appunto creato da loro, le masse, grandi masse sonore che vengono manipolate in maniera veramente stupefacente, potremmo dire, e con Oneida che comunque vicini sempre a un approccio indie rock che comunque è sempre stato inquieto, mai fermo insomma dietro al così al linguaggio diretto molto anche semplicistico, potremmo dire, di molte college radio che vanno molto in America appunto legato all'indie rock, ma con quelle inquietudini che l'hanno fatti insomma attraversare soprattutto nel primo disco anche territori vicini appunto. Prima all'inizio trasmissione abbiamo messo Martin Rev, perché non citare proprio lui insieme ai Suicide, vivono quindi due anime che riescono comunque a trovare una sintesi, e quindi riescono anche gli stessi Oneida e Rhys Chatham un po' a depistarsi, a autodirottarsi potremmo dire, e nel loro appunto porsi in maniera differente, però con un linguaggio sintetico veramente notevole in questo What's Your Sign, punto di domanda. Beh, probabilmente la domanda ci sta tutta, e con questo Bad Brains Max Macchia vi rimanda non a mercoledì prossimo ma l'altro ancora per un altro viaggio appunto dentro le sperimentazioni, ricerche, quant'altro, non so, perdite, smarrimenti, forse, depistamenti, dirottamenti. No, questa sera abbiamo fatto i dirottamenti. Ciao, alla prossima.